24 mattino. L'intervista. Eccoci, quando sono le 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Siamo con il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, che saluto. Buongiorno e ben ritrovato, Di Pietro. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senta, ieri questo super vertice ad Arcore di 7 ore, via il contributo di solidarietà, niente ritocchi all'IVA, una ministretta sulle pensioni, salvati i tagli ai comuni, insomma queste le cose più importanti uscite dalla nuova manovra. Perché non vi piace? Cosa criticate voi? Più il metodo o il merito? Metodo e merito, questa non è la manovra, è un ennesimo tentativo fuori dalle aule istituzionali di mettere d'accordo capre e cavoli alle spalle degli italiani. È una manovra annunciata, ma di fatto quel che messaggio bisognava mandare ai cittadini, che era il taglio agli sprechi, la lotta alla casta, la riduzione dei costi della politica, l'individuazione di canali di entrata e di spesa diversi da quelli che sono stati individuati in questa manovra, non è stato accaduto niente, perché dire elimineremo le province dopo, con una legge costituzionale che si farà dopo, appena lo diranno, la prima cosa che faranno una commissione per discuterne e staremo a punte da capo. Se vuoi che una cosa non si realizzi mai, fai una commissione e rinvia al giorno dopo. Io vorrei ricordare agli italiani e a chi ci ascolta che un mese e mezzo fa, una settimana prima di andare alle vacanze, è stato messo all'ordine del giorno in Parlamento la votazione sull'eliminazione delle province su una proposta di legge dell'Italia dei Valori. L'hanno bocciato tutti, sia quelli del PDL sia quelli del PD. Sì. Per cui con quale credibilità oggi si viene a dire che lo si farà dopo? Così con quale credibilità si viene a dire i parlamentari li ridurremo dopo? Se lo fai adesso ha un senso, se dici che lo fai dopo vuol dire che non lo vuoi fare. Quindi secondo lei non si farà questo disegno di legge costituzionale? Cos'è? Oggi no, il fatto disegno di legge si farà, sì, è sì, la legge che non si no, farà. Certo, il disegno c'è, cioè non arriverà a niente, avremo le province, avremo questi parlamentari. Bastava farlo immediatamente e cominciare a fare quel che si poteva già cominciare a fare. Noi avevo fatto una proposta politica completamente da subito, un'altra proposta di dire man mano che scadono i consigli provinciali non si rinnovano più, quindi non è che ci voleva chissà che cosa per fare una cosa del genere. Il contributo di solidarietà, vede, così come formulato non era un contributo, era ancora una volta paghino le tasse chi le deve pagare. Sì. Però bisogna fare qualcosa in più, cioè vale a dire paghino le tasse che fino a mo non le ha pagate. Ad esempio il 20%, noi abbiamo proposto, nel nostro emendamento c'è, ma vedrai che ci bocceranno pure quello, il 20% di contributi di solidarietà da parte di coloro che hanno fatto lo scudo fiscale, da coloro che si sono avvalsi dei condoni fiscali. Ma quelli già hanno pagato con il rientro. No, cioè quelli una hanno tassa... pagato il 4%, vabbè, beh, certo. Parti. Ho capito, però è una tassa... Il cittadino normale paga il 42%, questo capito? Sì, però si dice è una tassa sulla tassa, cioè già hanno pagato il 4%. No, sì, ma su quale tassa è una tassa? Sul rientro, sul rientro. Pazienza, no? Lei è una persona intelligente e ha il diritto dovere di non prendere in giro lei, lasci che siano soltanto i politici a prendere in giro. Capito, hanno pagato il 4%. Adesso... Abbia pazienza, lei che, sì, le fanno lo stesso, che credo le tolgono le tasse alla fonte, sì, lei paga il 40%, certo, quello che paga ha pagato il 4% perché aveva i soldi all'estero e non poteva riportarli in Italia perché non poteva giustificare come l'aveva fatti, quindi già il fatto che l'aveva portato all'estero era per nascondere qualcosa che aveva fatto e non poteva. Ma su questo siamo d'accordo, Di Pietro. Se però lo Stato fa un accordo e dice rientrano, d'accordo, e questo è un accordo. Dopodiché lo Stato in braghe di tela ha bisogno di soldi, a chi li va a prendere? Ai pensionati, li va a prendere ai lavoratori, li va a prendere a quelli che hanno la ritenuta alla fonte e non li va a prendere a quelli, non chiede un contributo di solidarietà a quelli che non solo ce n'avevano tanti ma ce l'avevano nascosto all'estero e l'hanno fatto rientrare col 4% invece che 40% di tasse. Il contributo di solidarietà va chiesto a chi ce l'ha, non a chi non ce l'ha. Quindi voi, a chi non l'ha pagato, voi avete fatto un emendamento per chiedere il 20% di contributo, anche questo tra gli altri. Voglio dire una cosa, lei mi spiega perché le concessioni televisive si pagano all'1% invece di pagarle al 15%, al 20%, al 12%. Mi spieghi per quale ragione adesso si assegnano le frequenze pubbliche, quindi è un affare enorme dove si possono reperire miliardi e non lo si fa ad asta pubblica europea. Ecco, mi spieghi perché si è sempre detto anche questo governo che devono fare le liberalizzazioni, le privatizzazioni, e non ce n'è manco uno, manca cercato con l'anternino. Ecco, rispetto a tutto questo, rispetto a questa rivoluzione liberale che doveva essere fatta, ad oggi l'unica cosa che è stata fatta è l'aumento delle tasse ai cittadini che pagano le tasse e la riduzione dei servizi attraverso la riduzione dei fondi ai comuni a quei cittadini che hanno bisogno di servizi e assistenti fondamentali. Ecco perché prima se ne vanno a casa meglio è. Le chiedo un paio di domande sulla questione Penati, nel senso, a questi microfoni di recente il sindaco di Napoli De Magistris disse: guardi, io se dovessi pensare a da quando ho fatto il magistrato, se mi avessero chiesto ha trovato più persone, diciamo, implicate in corruzione a sinistra o a destra, non saprei che rispondere. Anche per lei è così, cioè non c'è... esiste la corruzione di destra e la corruzione di sinistra, esiste la corruzione. No, ma numericamente come persone. Ma numericamente dipende dalla giornata, come si alza la mattina, perché voglio dire, ogni giorno ce n'è uno nuovo. Il vero problema è un altro: perché la lotta alla corruzione non si fa? Non si fa la lotta alla corruzione perché c'è un conflitto di interesse fondamentale che sta dentro il Parlamento. Fino a quando si permette a chi sta dentro il Parlamento di essere anche condannato, inquisito, imputato oppure avvocato dei condannati, inquisiti e imputati, ogni volta che si sta in Parlamento si fanno le leggi per sistemare i poverici i propri affari e non per sistemare gli affari degli italiani. Io sto dicendo, dal 94, noi nel 94 ero ancora magistrato, noi pool di Milano, Mani Pulite, facciamo una proposta di 3 regolette, semplici, che le capiscono tutti quanti, e proprio per questo non l'hanno fatta, che se l'avessero applicato oggi sarebbe tutto diverso. Primo, i condannati non possono essere candidati, e se sono già eletti, quando vengono condannati devono decadere. Sì, i rinviati a giudizio, quelli cioè sotto processo, dopo che il giudice ha detto si deve processare, dopo le indagini preliminari, non possono assumere incarichi di governo né locale né centrale, né fare l'assessore né fare il ministro. Coloro che sono in affari con la pubblica amministrazione, se si macchiano di reati contro la pubblica amministrazione, dei reati fiscali, societari e corruzione, non possono più contrarre con la pubblica amministrazione. Queste 3 regolette, se fossero state applicate quando abbiamo scoperto con Mani Pulite l'affare Tangentopoli, oggi avremmo un diverso Parlamento, un diverso governo, una diversa classe imprenditoriale. Invece di combattere il male hanno combattuto i medici. E invece, ma Penati secondo lei dovrebbe rinunciare a questa prescrizione, come chiede anche molti del PD adesso? Anche questa storia del PD che chiede a Penati di rinunciare alla prescrizione. Penati, è chiaro che alla prescrizione è una persona che tiene al suo onore, a prescindere dagli eventi processuali, perché dopo un certo tempo non può più essere processato, non può che rinunciare alla prescrizione, perché alla prescrizione rinunciano soltanto quelli che si sentono intimamente dentro innocenti, gli altri preferiscono la scorciatoia pur di non affrontare il processo. Ma il problema, se permette, io lo rilancio, quindi alla sua domanda rispondo: certo che è innocente se vuole tornare bianco come un lenzuolo, altrimenti rimane sempre sporcato, ma io vado oltre la sua domanda, rispondo: e il PD che fa? Intendo dire e ripeto, una cosa è la responsabilità penale, una cosa è la responsabilità politica. Il Partito Democratico, a prescindere dal fatto che se lui si dimette o meno, se lo tiene ancora in bilico con la sospensione e gli dice: amico mio, quella è la porta, vai in pace. Se lo espelle, a lei va bene, insomma, tutto risolto. Dovrebbe espellerlo, ecco. Io sto dicendo che si deve interrompere immediatamente questo rapporto fiduciario fino a quando quel signore non giustifichi i propri comportamenti, perché i fatti che sono venuti fuori non sono fatti che possono essere derubricati in beghe politiche. C'è una questione morale che va affrontata, quella giudiziaria saranno i giudici, ma quella morale, le faccio sempre un esempio molto semplice che faceva il mio collega Pier Camillo Davigo, il suo vicino di casa, lei quando va al cinema la sera con la moglie dice: guarda, ti lascio le chiavi di casa, chissà dove succedere qualcosa, si incendia qualcosa, viene qualcuno. Una sera ritorna dal cinema e trova che il vicino di casa scappa con il sacco dell'argenteria di casa sua, se ne sta andando. Lei certamente non può dire che è colpevole fino a quando non ci sarà la sentenza penale passata in giudicato. Però mica dà ancora le chiavi al vicino di casa per dire: guardami la casa. Vabbè, è l'ultima battuta. Sei abbastanza capito. L'ultima battuta, mi dica con un sì o un no, ma secondo lei la vicenda Penati coinvolge anche politicamente Bersani, anche in una prospettiva futura, visto che erano, oppure no? Ma guarda, una cosa era, diciamo così, la responsabilità personale. Io che Bersani sia coinvolto in questo. Penalmente no, politicamente. La responsabilità politica. Vede che succede quando una nave va a sbattere contro uno scoglio, sarà pure il colpo del nostro uomo, ma la responsabilità oggettiva se la porta a casa il comandante della nave. La ringrazio, allora, buona giornata. Grazie per essere stato con noi, Antonio Di Pietro. Ci fermiamo per la pubblicità e poi parliamo di questa vicenda che viene dalla Francia. Dalla Francia hanno deciso di tassare le bibite gassate, si è detto la Coca-Cola, perché lo Stato dice deve controllare la salute dei cittadini, che la salute sia tenuta come un bene pubblico, perché poi i costi ricadono su tutti. Che ne pensate? È un atteggiamento giusto, una tassa sui vizi, sui comportamenti alimentari sbagliati, sul fumo, sull'alcol? Ne parliamo tra poco. 24 mattino. Allora, eccoci qua, le 8:33 minuti. Vogliamo parlare alla luce di quello che è successo in Francia, dove il governo ha deciso di tassare. Beh, si è letto sui giornali la Coca-Cola, in realtà tassare le bibite gassate. Perché? Perché fanno male alla salute dei cittadini e poi i costi della salute ricadono su tutti noi. E dunque una tassa sul vizio, l'abbiamo tradotta così, una tassa sulle cattive o presunte cattive abitudini alimentari, una tassa sui comportamenti personali delle persone. Che ne pensate? È un atteggiamento giusto? Io sono o blanco o negro, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Guardate che non è solo una questione di colore e di voler parlare della tassa sulle bibite gassate, che tra l'altro è un dibattito che c'è da anni, si può dire anche che molti vogliono inserire una tassa sul fumo perché fa male, poi i costi ricadono appunto su tutti, su tutta la società che deve sostenere i costi per guarire le persone che magari si ammalano per il fumo. Non è solo una questione di colore, è una questione anche dell'approccio che vogliamo, di che Stato vogliamo, uno Stato che debba anche controllare e regolare i nostri comportamenti, fin tanto a spingersi a imporre una tassa per chi mantiene dei comportamenti che vengono considerati non corretti dal punto di vista alimentare, oppure uno Stato che deve lasciare massima libertà, non deve entrare nelle scelte individuali, anche se scelte che portano magari poi al peggioramento della salute degli individui e poi a pesare sulle casse di tutti noi, sulle casse dello Stato stesso. Tra l'altro, oggi sul Corriere della Sera, casca a fagiolo anche la notizia, un bambino su tre in Italia è obeso. Questo anche è a rischio obesità, anche per le cattive abitudini alimentari. Allora, ne vogliamo parlare con Piero Ostellino, buongiorno, editorialista del Corriere della Sera. Ostellino, buongiorno. Buongiorno. Così come voglio salutare il segretario di Fondazione Comunista, Paolo Ferrero. Buongiorno, Ferrero. Buongiorno, buongiorno a lei, ascoltatore e ascoltatrice. Allora, intanto, Ostellino, lei ieri si è scagliato sul Corriere della Sera contro quello che definisce uno Stato etico e un'ipocrisia di Stato, no? Quella di volere imporre un metodo, un modo di comportamento. Ma insomma, davvero è così incredibile uno Stato che si fa gli affari dei privati, di come si vogliono alimentare, di come si vogliono comportare? Sarebbe incredibile se fosse uno Stato etico, cioè uno Stato che si preoccupa di come io mi comporto e quindi insomma uno Stato totalitario, ma in realtà non è nemmeno quello, cioè è semplicemente la disperazione dei governanti di uno Stato che non si regge più e che quindi ci raccontano la balla di preoccuparsi della nostra salute, ma in realtà cercano di spillarci dei quattrini. Cioè questa è la verità, cioè c'è uno Stato in bancarotta, cioè lo Stato contemporaneo uscito dal New Deal e dopo la Seconda Guerra Mondiale, che non sta più in piedi perché costa troppo e quindi spilla in continuazione soldi ai cittadini fino al punto di trovare la giustificazione della loro salute. Ma della nostra salute ai nostri governanti non gliene può fregare di meno, loro vogliono soltanto prenderci dei soldi. Dopodiché aggiungono: lo facciamo per il tuo bene. Cioè è come se il ladro entrasse in casa mia, mi portasse via i gioielli di mia moglie e dicesse: lo faccio per una questione estetica perché tua moglie con quei gioielli sta male. Beh, questa è veramente una scusa indecente. Senta, ma lei ieri sul Corriere dice: la salute non è un bene pubblico ma privato, cioè io faccio quello che voglio, però i costi, gli oneri della gestione della salute pubblica sono di fatto pubblici. Cioè voglio dire, qualcuno dice: perché io devo, di fronte a una persona che si alimenta male, che non ha nessun minimo atteggiamento di corretto comportamento alimentare, poi sostenerne i costi che ci saranno poi evidentemente dal punto di vista della salute pubblica? Questa è un'altra balla. Cioè noi viviamo in un mondo dove lo Stato ci racconta delle balle per giustificare i suoi comportamenti. Cioè se io mi ammalo, lo Stato ha il dovere di curarmi attraverso lo Stato sociale, il welfare, perché io pago già le tasse affinché lo Stato mi curi. Non può pretendere che io metta la maglietta di salute, della salute, e poi dice: siccome non hai messo la maglietta della salute, ti sei preso la bronchite e quindi io non ti curo più perché dovevi metterti la maglietta della salute. Mm. La salute è un fatto privato, soltanto Hitler pensava che fosse un fatto pubblico. Però le tasse le, le tasse le paghiamo tutti in modo uguale, ma chi si comporta, chi per usare il suo esempio, chi mette la maglietta della salute magari ha una minore probabilità di ammalarsi rispetto a chi non la ma mette. Ma sono fatti suoi, cioè se io mi becco la bronchite è un fatto mio, io non è che sono contento di beccarmi la salute e non sono nemmeno contento di ingrassare e magari di prendermi il diabete. Quelli attengono ai miei comportamenti privati, cioè io ingrasso quanto mi pare perché sono fatti miei, dopodiché se io starò male, ci sarà qualcuno che mi cura, ma sono io che mi sono fatto male da me stesso, cioè è stata una mia scelta individuale, ma perché lo Stato si deve occupare di quello che io mangio? Cioè ad un certo punto lo Stato deciderà che io non devo più mangiare la maionese perché la maionese ingrassa, oppure dei biscotti perché i biscotti ingrassano. Beh, in America se ne parla, addirittura in America le fat tax, cioè la tassa sul grasso, no? O sul junk food, come viene definito. Io vorrei capire da Paolo Ferrero che tipo di approccio, che ne pensa lei dell'approccio, è proprio un approccio semplicemente utilitaristico, cioè fa spillare soldi anche attraverso una falsa pretesa di voler curare la salute pubblica da parte degli stati, come dice Ostellino, oppure l'approccio può essere corretto? No, io sono, diciamo così, concordo con Ostellino su una cosa sola, che è quella che sostanzialmente la tassa messa in Francia l'hanno messa come una furbata per tirare su qualche soldo, tant'è che hanno tassato le bibite gasate, non hanno tassato il rum pur avendo tassato gli alcolici, e ad esempio non tassano il foie gras, cioè hanno tassato una cosa che sapeva gli faceva poco problema per tirar su un po' di soldi, mentre su altri prodotti altrettanto dannosi per la salute non hanno fatto niente perché avrebbero avuto delle proteste. Quindi questa è l'unica cosa su cui sono d'accordo con Ostellino, e cioè che c'è stata una furbata da parte dei francesi, non è che si può, come dire, camuffare come difesa della salute il fatto che stanno cercando di avere qualche soldo. Invece io non sono per nulla d'accordo sugli altri due elementi che Ostellino dice. Il primo è che gli stati sono diventati delle idrovore da dopo il New Deal. Non è vero. Gli stati dopo il New Deal, con la spesa in deficit, hanno permesso uno sviluppo economico, sociale, civile, hanno permesso l'aumento dell'età media delle persone, hanno permesso di andare a scuola, di avere gli ospedali, come non c'era mai stato nella storia dell'umanità. Se l'umanità si è sviluppata dal 45 agli anni 70 e grazie alle politiche keynesiane e di intervento pubblico che Ostellino osteggia, e infatti negli ultimi 20 anni queste politiche non sono state fatte, c'è stato un regresso sociale, civile, che oggi viviamo nella crisi pesantemente. Quindi io penso che Ostellino sbagli fortemente nell'individuare l'obiettivo. Sì. Il problema che abbiamo in Europa, poi arrivo di nuovo, il problema che abbiamo in Europa è di aver fatto una banca centrale europea che non può finanziare gli stati, tant'è che l'Europa è l'unico continente sottoposto alla speculazione finanziaria, non succede né al Giappone né alla Cina né agli Stati Uniti, solo all'Europa per la stupidaggine neoliberista con cui hanno fatto, diciamo, l'impianto finanziario. Poi c'è un secondo ragionamento, che è questo, che io penso che invece il problema della salute, della vita della gente, c'entri con gli stati. Secondo me c'entra, dovrebbe entrarci poco con le tasse e invece entrarci molto con un intervento a monte degli stati. Faccio un esempio: che senso ha tassare gli alcolici di più, oppure mandare in galera se un giovane guida in stato di ebbrezza, e permettere in continuazione la pubblicità degli alcolici? Io penso che andrebbe ad esempio proibita abolito la pubblicità degli alcolici, perché quello lì costruisce l'immaginario delle persone, e allora è stupido che lo Stato prima permetta di rendere, diciamo, appetibile l'uso di un certo prodotto perché gli va bene al mercato, alle multinazionali, e poi magari un atteggiamento repressivo. Questo mi sembra veramente una cosa da male. Allora, su questo, ecco, per esempio Ostellino, detto che appunto giustamente la precisazione è che sono le bibite gassate, quelle zuccherate, non ci sono le bibite gassate non zuccherate che vanno bene, sono quelle zuccherate che poi fanno aumentare, no, il diabete, no, queste cose qui, quelle verranno tassate, ecco, questo in Francia. Ostellino, proibire per esempio la pubblicità degli alcolici è un intervento invasivo oppure perché la contraddizione che vede Ferrero è, dice, ma come si promuove l'alcol dandone un'immagine appetibile e poi magari lo si va a tassare perché si dice fa male, questa è una contraddizione, oppure è sbagliato proibire? Ma guarda, io non mi stupisco delle parole di Ferrero, che è molto coerente con la sua, diciamo, concezione del mondo, ecco. E la sua concezione del mondo è quella di considerare i cittadini dei deficienti, dei minorati, i quali non saprebbero da soli comportarsi, ma bisogna che ci sia uno Stato papà, il quale decide ciò che è bene, ciò che è male, quello che devono mangiare, quello che non devono mangiare. Poi se gli si dice guardate che questa Coca-Cola è buona, loro la bevono lo stesso se magari li ingrassa e via di questo passo. Cioè questo è lo Stato totalitario. Poi se vogliamo chiamarlo lo Stato etico è anche lo Stato che, nel quale vivremmo se comandasse la Chiesa. Cioè i gesuiti che nel Paraguay autorizzavano gli indigeni a fare l'amore solo quando suonavano una campana, questo è lo Stato nel quale crede Ferrero. Sì. Ora io considero del tutto legittimo quello che pensa Ferrero, per carità, cioè ciascuno pensa quello che gli pare. Però io mi auguro di non vivere in uno stato così. Però mi scusi Ostellino, i comportamenti privati di una persona che ne so che si strafoga di 50 litri di bibite gassate, per dire, o di cibo. Lascerà la pelle, è finito. Lascerà la pelle, però lei dice è un comportamento privato. Però nel momento in cui si ammala per quello, i costi, lei dice ha pagato le tasse. Sì, ma ha pagato le tasse come uno che invece ha un comportamento irreprensibile. Eppure deve essere curato di più con costi che poi gravano anche su quello che magari si è comportato in maniera perfetta. Sì, ma il welfare, cioè lo Stato sociale, non è uno Stato morale, in base al quale guarda che se tu ti ammali perché ti comporti male, gravi sulla collettività e quindi sei un mascalzone. Perché sennò cadiamo verticalmente nello Stato etico. Poi Ferrero cita Keynes. Bene, io vorrei ricordare che nella edizione tedesca del 1936 della teoria generale, Keynes, edizione tedesca con Hitler al potere, sì. Keynes scrive: le mie teorie sono molto più efficaci in uno stato totalitario. Cioè lo stesso Keynes riconosce che le sue teorie sono fondamentalmente dirigistiche, tant'è vero che lo stesso Keynes in precedenza, ritornato dall'Unione Sovietica, scrisse addirittura un libricino entusiasta della pianificazione sovietica. Ora tutto questo rientra nella logica e nella concezione del mondo di Ferrero, che io rispetto, perché ciascuno in un paese libero ha le idee che meglio crede, quindi per carità di Dio. Tra un attimo. Però io non le condivido. No, ma certo, ma siamo qui giustamente, anche il format della trasmissione, mettere idee a confronto, anche che si scontrino in maniera pacata. Dopo il traffico risponderà Ferrero. Qui siamo entrati anche tra il New Deal rooseveltiano e le teorie keynesiane, insomma, ma parliamo proprio anche con qualche ascoltatore più terra terra di quello che sta succedendo in Francia, l'idea di tassare dei comportamenti considerati sbagliati dal punto di vista alimentare, tra un attimo con gli ascoltatori. Io sono o blanco o nero, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora Ferrero, lei vuole lo Stato papà che ci dice un po' come ci dobbiamo comportare anche in fatto di bere o non bere, o mangiare o non mangiare? Però io penso che nelle cose che dicevo Ostellino c'è una falsità, nel senso che io non ho parlato di proibire, è lui che mi attribuisce una cosa che io non sostengo. Prendiamo l'alcol, io sono contro il proibizionismo, lo sono anche sulle droghe, ma sono contro il proibizionismo. La cosa che dico è che lo Stato ha il dovere pubblico di proibire delle pubblicità che fanno apparire come un fatto positivo quello che in realtà poi sulla salute della gente dà un fatto negativo. noi abbiamo le pubblicità degli alcolici che ti spiegano che se bevi quel superalcolico lì c'hai la donna più carina, che se bevi quell'altro c'è il gruppo di amici e sei qualcuno. Evidentemente il messaggio che passa con quella pubblicità è che se non usi quelle sostanze non sei nessuno. E infatti oramai la gente prende di tutto pensando che il problema della costruzione della sua personalità è data dalle sostanze che assume, non dalla qualità della sua capacità di autocostruzione. Ora, che la pubblicità c'entri nella vita della gente, questo è evidente, c'è un peso pesante, sono belle, ammiccanti, le vediamo tutti i giorni in televisione. Allora, io penso che questa è manipolazione. Ostellino invece pensa che tutto quello che fa il mercato va bene. Se un'azienda racconta delle balle per vendere una merce, per Ostellino va bene perché lo fa il mercato e non lo fa lo Stato. Però lì ci sono le eventuali sanzioni se c'è pubblicità ingannevole. Non è che raccontano chissà che cosa, ti dicono perché lei ha mai fatto un gruppo di amici bevendo un amaro? Io mai, eppure nelle pubblicità degli amaro a quello ammiccano, in una società di gente che vive solitudini e avanti ti dicono se fai così appunto. Donna, l'uomo, va. Allora io penso semplicemente non di proibire, in questo io non accetto che mi si venga detto che io sono per lo Stato etico, io sono per uno Stato democratico, democratico, ma dentro lo Stato democratico c'è anche la responsabilità dello Stato di pareggiare il peso che le multinazionali, le grandi imprese hanno nel cercare di plasmare, di deformare la vita della gente. Allora, la Nestlé che vendeva il latte in polvere alle mamme, producendo così migliaia di morti, quando invece quelle mamme li potevano allattare i loro bambini, e lì ci vuole un'autorità pubblica che dica guardate che la Nestlé vi racconta delle balle, perché altrimenti il peso delle grandi aziende è tale che certo che condiziona la vita della gente. Allora, ci vuole un'autorità pubblica. Sentiamo, sono tantissimi gli ascoltatori che su questo tema si vogliono sbizzarrire. Allora, siate sintetici, vi prego. Enrico da Modena, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Niente, rispondendo subito a Ferrero, io direi che bisogna vietare anche le pubblicità di tutte quegli alimenti che contengono maiale, visto che i primi problemi in Italia sono dati dall'ipertensione. La seconda cosa che vorrei dire è che dice spingendo all'estremo questa vicenda. Sì, sì. Beh, insomma, Jeremy Rifkin dice che bisogna tassare la carne perché i grandi allevamenti di carne. Esatto. La seconda cosa che volevo dire è che non vedo l'ora che iniziano a vietare bevande gasate, così inizieranno poi a togliere anche la benzina, visto che respirare benzina o quello che è il prodotto della benzina produce. Ragione per estremismi, però. Ricco. Stiamo arrivando a livelli in cui è la scuola che deve dare gli esempi di come alimentarsi, di non fumare o di bere limitatamente, cosa bere, educazione, non è non ci vuole l'intervento insomma così invasivo. Grazie Enrico, voglio andare a Prato da Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica, deve spegnere la radio però, dica velocemente. Sì, mi allontano. E niente, io sono d'accordissimo con la legge che è stata fatta in Francia, perché le ricerche sono chiare perché nel 2050 è previsto qui in Italia che un italiano su tre abbia il diabete mellito, perciò non è che lo Stato ora si mette a fare il buono, facendo due conti è logico che magari possa mettere delle tasse su. Ho capito, ma secondo lei fa due conti per prevenire, o come dice Ostellino e come su questo è d'accordo anche Ferrero, non fa due conti per guardare al futuro, ma fa due conti per prendere un po' di soldi mettendo una tassa, perché questo è il punto. Cioè, sul futuro. Perché è logico che il diabete bisogna curarlo con farmaci che magari lo Stato che dovrà pagare. Questa è una visione magari, come dire, illuminata. Chissà se i governanti hanno questa sua stessa visione o se guardano più alle casse immediate di raccattare su dei soldi, insomma. Ostellino, lei è più per questo ovviamente, ma questo ce l'ha già detto, no? Quest'idea del guardare al futuro e quindi alla salute pubblica. Qualche ascoltatore? No, io volevo eccepire a quello che diceva Ferrero. Cioè, sono d'accordo anch'io con Ferrero che c'è un tipo di, può esserci un tipo di pubblicità che, come dire, manipola e fa passare per buone delle cose che invece sono nocive. Ma queste leggi ci sono già. Cioè, non è vero che io sia per il mercato in assoluto. Cioè, se un'azienda mette la sua fabbrica ai bordi di un fiume e inquina quel fiume, c'è già una legge che proibisce di inquinare quel fiume. Cioè non è che in nome del mercato si possa fare ciò, tutto ciò che si vuole. Ma quando Ferrero dice io voglio proibire la pubblicità, lui deve spiegare che dovrebbe essere esattamente come chi mette la propria azienda sul fiume e lo inquina, cioè una pubblicità che mi dica guarda che se tu fumi diventi più alto e diventi più bello. Allora a questo punto, siccome non è vero che fumando io divento più alto e più bello, è una pubblicità mistificatoria, cioè mi imbrogliano. La stessa cosa per qualsiasi altra cosa. Ma la pubblicità deve continuare ad esserci. Semplicemente, come dire, l'educazione alimentare o qualsiasi tipo di educazione, compreso il fumo, deve venire dalla scuola, deve venire dalla convinzione, non deve venire dalla proibizione. Cioè io sono per la libertà dell'individuo, cioè per la responsabilità dell'individuo. L'individuo è libero se è anche responsabile, e quindi anche chi fa pubblicità è libero di fare pubblicità se è responsabile, nel senso che non mi imbroglia. Sì, anche se dice Ferrero, ci sono già queste pubblicità che fanno passare delle immagini, che ne so, appunto, bevi questo e vedete che stai con gli amici, no? Ci sono anche degli usi abili dell'immagine, anche no? Ma anche qui siamo fermi al vecchio mito dei persuasori occulti. Cioè i persuasori occulti che, come dire, incidono sull'inconscio dei cittadini, attraverso i quali l'immagine. I cittadini sono dei perfetti imbecilli che si fanno convincere da chiunque. Ma io vorrei vivere in un paese dove la gente è sufficientemente, come dire, capace di giudicare se bere troppo gli fa male, sì, o certo, se fumare troppo. No, c'è questa immagine, Ferrero. È un fatto di libertà. Ferrero, c'è questa immagine sulla quale vorrei che lei replicasse, insomma, che Ostellino dice, lei vede un po' i cittadini un po' come degli stolti, no? Degli imbecilli che devono essere un attimo indirizzati, perché altrimenti non sanno nel mare magnum, per esempio, della comunicazione, in questo caso vengono travolti. È vero, perché Ostellino non sa o fa finta di non sapere che esistono due forme di comunicazione. Una è quella razionale, la scuola, il libro, la discussione, il confronto, e una è quella emotiva che colpisce l'emozione del cervello. Noi siamo degli animali, noi uomini e noi donne, che hanno sia l'elemento razionale sia l'elemento emotivo. La pubblicità gioca sull'elemento emotivo. Non è che fa un ragionamento razionale, gioca sull'elemento emotivo. L'elemento emozionale è di gran lunga più potente nei comportamenti, perché esiste anche l'inconscio, l'uomo è, appunto, e la donna sono animali complessi, è di gran lunga più potente per determinare i comportamenti. Allora, io penso che persone che sono bombardate dal mattino alla sera al fatto che devi mangiare questo, mangiare quello, prendere quello, alla fine si convincono. Pensiamo alla pubblicità dell'automobile. Ti dipingono sempre delle automobili che corrono da sole i 200 all'ora in mezzo a splendide campagne o su splendide scogliere. Poi la realtà concreta è che se uno ascoltava prima le notizie sul traffico, è che alle 8 del mattino tutti gli italiani sono imbottigliati in mezzo a automobili che viaggiano passo d'ora. Sì, però vede che allora, così lo dipinge un po' come l'italiano medio, insomma, un po' come uno stolto che si fa convincere. Non è l'italiano, è il consumatore. Io semplicemente propongo questo. Secondo me le pubblicità sono imbroglione di loro, cioè altrimenti non le farebbero. E che facciamo? E io penso che se abolissimo le pubblicità, che non siano semplicemente la descrizione del prodotto. Cioè se uno mi vuol dire questo computer funziona così, con questa velocità, sa che noia, invece ammicca sul piano dell'immaginario della cosa in sé, è un meccanismo che alla fine cerca di portarmi a comprare quella cosa invece che quell'altra. Ho capito, però vedi, lei dipinge un po' sempre come il consumatore, un po' come stolto, cioè che si fa un attimo rimbambito, si fa convincere, perché secondo lei la televisione non incide sugli stili di vita delle persone? Sì, certo, io però penso di sì, che però scegliono, bisogna prenderne atto, che però si fanno convincere in maniera magari, ma sì, non è che si fanno convincere, che quella forma lì, la televisione, l'immagine, lo spot fatto bene di 10 secondi ha una grande forza. Allora io penso che va bilanciata e penso che va bilanciata con l'educazione, la discussione. A me piacerebbe avere una televisione che faccia un po' più programmi di informazione e di cultura e non solo programmi commerciali. Penso che ad esempio l'industria della pubblicità come forma di manipolazione delle persone andrebbe demolita, perché quella è una forma di distorsione che noi subiamo tutti i giorni. Questa è la sua visione, insomma, avete sentito, con Piero Stellino, che ringrazio, e Paolo Ferrero di Fondazione Comunista, eccoci qua, insomma, a discutere di un tema molto, molto interessante. Ho visto tante telefonate, continuiamo anche su Facebook 24 mattino, il nostro sito, andate lì. Cos'è? Ah, vabbè. L'osteria degli Alpini. Peter Bescapè non poteva che concludere così. Questi tiri mancini, va bene. Allora, con Peter Bescapè in regia, il nostro Alpino, e Alessandro Longoni in redazione, grazie, ci sentiamo domani alle 7:20. Sabina, Sabina, Sabina.